se arriviamo. La gente si spaventa da quanto lo pompiamo. Fatti per un suono che distingue noi la massa. L'unione delle grasse vibrazioni di un basso e di una cassa. Certo che lo noti quando passa. Attiriamo l'attenzione perché l'audio non si abbassa. Non sento se mi parla chi ho vicino, ma so che sente meglio chi è all'esterno e quindi abbasso il finestrino. Diamo il nostro show, faccio da intrattenimento. Sguardo provocante e testa sempre a tempo. Taglio le frequenze mentre amplifico l'effetto e decido di fermarmi quando trema lo specchietto. Chi ci guarda non ci crede, si incanta. E per il centro limite non passa i 50. Sempre a fuoco, non ci frega delle previsioni. Qualsiasi tempo faccia lo spingiamo dai coni. Miro le ragazze che ci scrutano. Vado giù di clacson, guarda se salutano. Classico tragitto mentre il traffico ci uccide. La gente che ci riconosce al volo alza la mano e ci sorride. Questo è come siamo sulla strada. Carichi e protetti qualunque cosa accada. Mano sul volume, se lo vuoi portare su devi girare di più. È tutto più speciale. Muovi la testa e impara come si fa. E batte il beat e va a fare. E vive i jolly, spaccano la città. Yo, dammi un suono che ti muove, che ci rappo così. Dimmi quando posso entrare che lo faccio da qui. Fammi un cenno col capo che parto. C'è fuori già qualcuno pronto a morire d'infarto. La mia lingua fa le veci di un pazzo sicario. Dall'altra parte vari occhi fissati al sipario. Tra la folla qualche stronzo richiede il mio flow. Ehi DJ, spingi play, diammi inizio allo show. Yo, prendo il micro e mi impossesso del palco. Facce strane che mi osservano, le guardo dall'alto. Tengo tutti sotto tiro, la mia voce si espande. Chi mi mostra il terzo dito e chi mi grida sei grande. Mani al cielo che si muovono a tempo. Mi chiedono 100, li colpisco da dentro e faccio centro, attendo. Qualcuno qui si è già spento, lo riaccendo in un secondo, gomitate sul mento. Mi incammino e mi avvicino alla folla. Chi beve, chi migliora, chi mi ascolta e chi rolla. Leggo l'emozione sulle facce di fronte. Chiedo urlato il mio nome, la platea mi risponde. Mi basta poco, il pubblico caldo. Nella tasca c'ho un asso e sono pronto a giocarlo. Vedo l'entusiasmo ma ne voglio di più. Sai che puoi farlo anche tu. È tutto più speciale. Muovi la testa e impara come si fa. E batte il beat e va a fare. E vive i jolly, spaccano la città. Mezzo piede sono dentro nel club. Stasera faccio il pieno con la musica rap. Mi rilasso e prendo il primo posto libero. Esamino il locale, lo studio e poi l'assimilo. Metà massa si scatena giù in pista. L'ambiente si riscalda col DJ che mischia. Bomba sopra bomba, tutto sotto la puntina. Si tira fino all'alba, non si fugge via prima. Gocce di sudore sopra corpi umidi. Dondolano a tempo con dei movimenti ruvidi. Scimmie che si muovono all'interno di un branco. Sbattono il sedere dentro un pantalone troppo largo. Tipo sexy col corpo seminudo. Metto l'intenzione anche più molla appena muovono il culo. Ordino una birra e la consumo. La nebbia che ho di fronte avvisa quanto sono avvolto nel fumo. Giro per vedere come butta. Chi parla, chi balla, chi sta al bancone con la gola asciutta. Gente che non fiata e sta appoggiata sempre al muro. Col bicchiere stretto in mano e con lo sguardo da duro. Tieni su quel braccio che si brinda. Butta giù in un colpo se hai bisogno di una spinta. Alza quella mano e se ne vuoi anche tu. Devi tenerla più su. Yo! È tutto più. Non mi sento, non cazzo.